Roma Trastevere, 25 marzo 1970. Care Eleuterio, la stanzetta che mi vide adolescente e speranzosa, oggi mi vede adulta e amareggiata. Sono triste, Eleuterio. Mammina nell'altra stanza traffica con l'aspirapolvere, il ronzio del quale mi intristisce ancora di più. Comunque penso che l'aspirapolvere in fondo non è altro che il fond della moquette. E penso anche che sei un cretinetto, Eleuterio. Non si scatena una rissa per una statuina di Sèvres che si rompe, sempre tua. Roma Parioli, 26 marzo 1970, cara sempre mia. La stanzetta che ti vide adolescente e che oggi ti vede adulta, spero che ti veda anche decrepita. Più ti vede lei, meno ti vedo io. Le statuine di Sèvres sono pregiate e costose, quindi quando si rompono uno soffre e litiga. E quando si rompono colpendo una fronte la sofferenza è maggiore e la lite è più accesa. Ciao. Ho scritto. Ho scoperto finalmente che cosa manca a tua madre per essere completa. Un troll. Eleuterio. Roma Trastevere, 27 marzo 1970. Care Eleuterio, Soria Nastro, come vedi ti lascio nella categoria dei gatti matti di sprezzo con l'astro in coda. Mamina ha letto la tua lettera e quando è arrivata la faccenda del troll si deve essere un po' indispettita perché ha strappato in due l'elenco del telefono e ha detto parole che una signora non dovrebbe dire ma che se le dice essendo tua suocera è pienamente giustificata. Poi è andata in cucina a preparare le uova per pranzo. E io penso che le uova sono i ruspanti che potevano essere e non sono stati. E penso anche che mi dispiace averti tirato in testa la statuina di Sèvres. Ma il ferro da stiro era in cucina. Sempre tua. Roma Parioli, 28 marzo 1970. Imponderabile sempre mia. Questa casa senza di te è come uno spettacolo con Raffaele Piso. Manca di divertimento. Sarò un autolesionista, ma mi manchi. Sono un uomo che ama riflettere sugli errori commessi. E se tu non sei qui, rischio di dimenticare il più grave errore di gioventù. Torna, anche perché la solitudine mi ha talmente avvilito da rendermi deforme. Infatti ogni volta che indosso una giacca mi scappa fuori una specie di strana gobba sulla schiena. Deve essere grave. Ciao. Ho scritto. Non è grave. La portinaia dice che è meglio levare le stampelle dalle giacche prima di indossarle. Eleuterio. Roma Parioli, 29 marzo 1970. Care Eleuterio! Micione, eccomi, tu dici torna e io eccomi, torno, anzi sono già tornata mentre tu ancora no, ma presto tornerai e così saremo tornati tutti e due. Ho fatto un po' di ordine e ho ritrovato il letto sotto la roba che avrebbe dovuto stare nell'armadio. Ho levato i calzini e le cravatte appese al lampadario ed è tornata la luce. E penso che il lampadario è solo l'abito da sera delle lampadine. Penso anche al futile motivo della nostra ultima lite. Ricordo tutto perfettamente. Tu eri lì che leggevi un libro giallo. Io no. L'agente segreto Donovan si liberò degli ultimi sei avversari, poi sorridendo disse a Nadia: per acquisto con gli consolitario lei si impegna a pagare la somma di 2.500.000 lire in 10 rate mensili come d'accordo gioielleria Palletti. Non può essere. Donovan dice a Nadia: ma questa non è una pagina del giallo, questa è una fattura, è indirizzata a me. 2.500.000. Accidentaccio! Ehi, tu! Cosa? Ma accidenti, non hai sentito che ti ho chiamato? Sì, Eleuterio, ho sentito. Non ti agitare. Sono calmissimo. Niente. Si è soltanto strappato il libro. Come vedi, sono di una calma eccezionale. Non è niente. Si è rotta la gamba della sedia. Sono calmissimo. E con tutta calma ti chiedo. Attenzione a quello che ti chiedo. Sì, Eleuterio. Ti chiedo, che cos'è un solitario? Un solitario, Eleuterio? Un solitario è un gioco che si fa con le carte quando si è soli. Ma può essere anche un verme, Eleuterio. Ecco che cos'è un solitario. La fattura! Essere superstizioso, Eleuterio. Chi vuoi che ti abbia fatto la fattura? Ti prego di non tergicosare. Ho trovato la fattura della gioielleria Palletti. Ah, sì, quella bella gioielleria che sta al corso, quasi all'angolo con noi. Basta! Spiegami la faccenda del solitario. Del collier con solitario. Ma in fondo si tratta di una collanina. Ina? €2,5 milioni? Sì, ma rate. Pagabili da chi? Da noi due, con le tue economie. Mammina dice che i gioielli sono un investimento sicuro. E se mammina dice... Incosciente! Dubito molto che una lavatrice approssimativamente truccata da donna, da madre natura, possa stabilire cose relative ad investimenti. Eleuterio, mammina è mia madre e io l'adoro. L'adori? Buddista! Smettile, Eleuterio, se no ti do qualche cosa sulla testa. €2,5 milioni! Che dovrò pagare solo perché tua madre ha deciso che i gioielli sono un investimento. Ma ti rendi conto che prima di spendere €2,5 milioni bisogna sapere se si possono spendere? E che prima di spendere €2,5 milioni... Rispondi tu, non ci sono per nessuno. Pronto? Non c'è, dica pure. Ah, sì? Bene, bene, riferirò. Chi era? L'autosalone Campania. L'autosalone Campania? Cosa vuoi? Cosa ha a che fare io con l'autosalone Campania? La Jaguar! La che? La Jaguar, Eleuterio! Dice che è pronta, è arrivata. Puoi andare a ritirarla quando vuoi. Vabbè, sì, insomma. Una macchina per... Per lavorare mi serviva. Sì, certo. Quella che ho consuma troppo, certo. Poi è rumorosa, non mi piaceva il colore. Sì. Insomma, dico, solitario sì e macchina no. I gioielli sono un investimento. E io la macchina l'ho comprata proprio per investire. Mammina dice che la macchina non è un investimento. E lasciami finire, ho detto e ripeto che l'ho comprata per investire tua madre appena mi capita a tiro. Assassino! Incosciente! Smettila di insultarmi, se no torno da mia madre. Tu non hai una madre, tu hai una cosa che non si sa come è riuscita ad allattarti. Smettila e lascia stare, bambina, brutto! Pazza! Egoista! Figlia di tua madre! Scappone, tieni! Ai! Ai! La fronte! Me ne vado, io torno là, ma ne esco! Ricordo tutto perfettamente, ma quando tornerai farò finta di niente. Ciao. Ciao, Eleuterio. Sai che cosa ho visto nella vetrina della gioielleria Palletti? Quella gioielleria al corso, quasi all'angolo con... Sai...